Attenzione, su 23 cambio. Attenzione, canale 23. Cesare! Babbaro tu pesci! Tu sei nel tafrusci se scende! Allora frusci sono! Eia, tutta fissi stai uscendo! Boh, io qua non mi sento, sono in cuffia, non mi sento! Ah ma no, ma ancora sì! Allora chi va in tutte le radio, se si rubattesse i canali e ne scatto. Prova ad allontanarti un po' dal microfono. Ho detto che Ansura è perché avevo tutte le radio accese sullo stesso canale e ha fischiato per quello. Oh, era ora. Buonasera comunque. Buonasera a lei. E allora? Che si dice? Come va? Come ti vuoi che abbia? Non m'appelli? Un po' in bicicletta? Come vuoi andare, signor Gianni? Vabbè, parla peggio meglio andare in bicicletta. Meglio che carrossella, Certo. E si da ridi, burro, bobo. Avanti, avanti, chi è? Ciao Badacu, vabbè, come va? Una vita che non ci si sente. È un po' bassino di radio, sì, no? Non so perché, perché di solito arrivavo più forte. Casa dei tuoi? Ho capito, vabbè. Bisogna arrangiarsi un po' là, e cosa aveva. Magari metti un'antenna più performante, magari è tipo un'antenna che è poco performante, no? La Sardino si ha fatto qualche duruino che si fa presente ogni tanto. Vabbè, poi adesso la Sardino si va per andare peggio, meglio così. C'è solo in compagnia contro la squadra, non so se lo senti. Io sì che ti sento, buonasera. Sì che ti sento. Solo ti sento io, non ti intendi solo Gianni. Andare, mi ascolti, sì? Gala si c'è, Saturno, ecco. A me me l'aveva riparato quello di coso, come si chiama? Ma non mi viene il nome, Albino. Riparava Vittorio, ma adesso c'è un sacco di lavoro e ti rilascia a parte un bel tempo, non ha tempo di farli, boh. Ma che cosa c'hanno? Quello lì sono da sintonizzare bene, quello lì c'è l'altro vittorio, il frequenzimetro, quello lì magari è un lavoro veloce da fare, non è tanto da perderci molto tempo, col frequenzimetro lo rimetti a posto, magari andate fuori con gli anni e coso, no, il mio grazie a Dio va bene. Il mio, vabbè, ho partiti finali, come li ho attaccato l'amplificatore sicuramente, sono partiti finali perché c'erano troppi watt e mi sono partiti finali, però me l'hanno messo a posto tranquillamente. No, il Cobra non ce l'ho più, ho preso, cioè c'ho il Cobra ma c'ho quello grande, quello che c'è con 100 watt. Quello io l'avevo venduto e praticamente poi ha fatto un giro di una, due, tre persone, adesso ce l'ha la terza persona, solo chi ce l'ha, però ma a me non mi soddisfava molto, Antonio era bello come estetica ma come soddisfazione non me ne dava molto, non usciva, non era performante come apparecchio. Diciamo che se si sente qui un po' particolare come dice, sinceramente che non è male, diciamo che la particolarità, diciamo, essere riuscendo a fare molto, c'è una bella decisione, non è male, però è carino, è un po' più perduto al subito. Sì, è tecnologico, apparecchio, cambia le luci, eccetera. E io come ti sto arrivando di segnale? No, siamo su 10, su 23, quando c'è gente, perché in questo periodo è un po' vuoto, c'è poca gente, avanti tu. Eia, infatti, c'è poca gente, vabbè. Ma la chiacchierata mi ha dato gli assi d'avvemmo, piano piano, andiamo avanti. Infatti, ogni tanto bisogna, sempre nell'ambito dei mobili, sì, Antonio. Sì, operatore, sono socio sanitario, e dove lo stai facendo? Ah, hai fatto il corso. Vabbè Antonio, ma almeno ti è servito per sistemarti. Ah, beh, sono tutto troncato da lavoro, perché io lavoro pesante, tirando pedale, facendo, caricando sulla pedana del camion, quando c'era un po' di discesa facevo il doppio della fatica, pedane grosse con quintali di roba, alla fine sono dovuto essere operato tutte e due le gambe, mi hanno messo la protesi tutti e due i femori, e in più sono sempre lui lascia perdere. Trovi forse qualche struttura per anziani eccetera eccetera, che ogni tanto la cercano, una mica mia lo fa Eboli, in una casa di cura, ma dice che c'è un freddo in alta montagna, c'è un freddo da morire e la notte non gli accendono manco il riscaldamento a questi poveracci. Per carità. Antonio, tu ce l'hai le ferme, perché sei arrivato molto con il ce ne passa bene ferme tu. Allo. Aiuto. Antonio, ci sei. Quanti? Sì, sì. Sono salito io in FM. Cosa? Sono salito in FM. Si sente un ribollimento, aspetta. No, no, io non ce l'ho qua, se cambia parato. Perché se non lo sai, fregaci, adesso ci arrivano bene, lascia stare Antonio, non ti preoccupare. Era perché poco fa c'era molto qua e mi ti colpino, ma adesso saranno bene. Break. Avanti. Ma che è Antonello di Rossi? Cappa. Un giorno senza sentirti. Buonasera Antonello. Si è cambiato apparecchio, ma non c'è, forse sta attaccando un altro apparecchio. Sta attaccando un altro apparecchio. Che sto cazzo, mi sembrava o non mi sembrava? Ho fatto la doccia al bambino, ho detto, ma mi sembra o non mi sembra? Ti sembra o non ti sembra? Andiamo bene. Andiamo bene, buonasera comunque. Buonasera, perché da chi sei da metto un poco di tempo se senti dire il bastone, è logico. Purtroppo è così, ci siamo calmati un poco. Ma noi entriamo, anche la sera entriamo, magari non ci sei tu, ma molte volte entriamo qua su 23. Ma Antonello di Rossi, però è un bel senso a sentirlo io. Allora, ciao Antonio. Ma non si può così? Ma in FM sì. Sei bello forte, bello pomposo. Appa, ha detto Antonio di Rossi, copia Antonio la Sassari. E capo, ma la tenente, è forte e chiaro. Appa, beh, già arrivo Rossi. Santiago 8. È che tu sei 7, sì, Radio 5, ma che te ne hai? Sono più di polo alla fine, di polo un po'. Non mi ricordo che momento che è, mi ricordo della tecnologia dell'antenna, il nome. Capo, però arrivi a Sassari, e io già c'ho un'antenna, una GPE 50 anni, alla grande. Quello c'è un piccolo, c'è un piccolo V, non dove sta, proprio la V, proprio la forma della V, non mi ricordo, c'è un migliore. Caspita, arrivi forte, cioè, per andare da Ussi spingi abbastanza bene a Sassari, cioè, non sei fortissimo, però, cavolo. Ma pure sta andando ancora, dai, non la più. Yeah, però a marea di tempo che non ti sentivo. Ogni tanto è perché mi ascolto, poi mi sono trasferito tra un tiro e l'altro, perché stare tutto, dai, non era il contributo. Cappa, comunque vai alla grande, quelle QDH del latte dolce, sa, c'è di una delta, dai. davanti a noi, non si deve muovere, non fa vero. Perché la bocca avevano fatto la lampada, ah, il tratto pandiero, e poi avevano fatto una lampada un po' particolare, avevano comprato la lampada un po' particolare. Ah, ma riprende già. E Antone, ti sei assentato per un po' di anni, no? Quanti anni sei centrale? Sono tornato da 5 anni, 5 anni. Sì, esatto, 5 anni. Vabbè, interessante, se non c'è la passione, interessante che rientri, poi quando c'è la passione poi si rientra sempre. Sì, guarda, tanto molto anni e non si troverà, no? Prima così, fermo, lo rompo, ma non si danno, ma così, è un rimbombo, no, non si danno mai. No, anche io ce l'ho sempre qua, che se la gente non sta entrando pochissimo, dai, ma già andiamo lo stesso. Sopra il buon alimentatore, oltre il resto di buon alimentatore, una cosa veramente, ma che è. E perché non ce l'ha l'alimentatore? Vedi, è troppo piccolo, ce n'è uno grave da portare a questo, 25 ampere, ma ne ha portato a riparare. È grande quanto un cantone, ed è di Cristo, forse 20 ampere. La gravità di insomma è stato detto questo, poi bisogna portare a riparare, ma chi lo posso? Riesco a riparare questo, allora sì, insomma posso, la voglia di 5 ampere le parti avanzano, certo non sto utilizzando uno là, da 5 ampere per poca roba, anzi non scusa un ampere. Antone, se non ti importa degli strumenti, ci sono quelli cinesi che costano una gassata a 30 euro e ci sono anche da 50 ampere. Io ho quello, sto usando quello adesso, in questo momento sto usando quello lì, l'amplificatore, quello cinese, da 50 ampere. Sono quelli cinesi, giusto? Sì, dovrebbero essere quelli che si mettono nei computer, capito? Ma sono affidati di qui per un apparato radio, non li trovo tanto, no, secondo me no, non sono la politica per federale, dovrebbe qualcosa di più, di fatto stabilizzare, un qualcosa di più diverso, secondo me. Come non sarà affidabile, li usiamo in tanti quanto lei, addirittura li usano più i ripetitori questi alimentatori, poi mettono il ripetitore che hanno i radioamatori, e infatti io l'ho comprato con un radioamatore, mi stavo ordinando, devo suggerirmi in due anche per me, uno l'ho dato a lui e uno me l'ho tenuto io. Ma io mi ricordo, se non sbaglio, quei siti che c'era quello della Frontel, non ricordo male. Sì, ma sono alimentatori che trovi anche da cinesi, se sei fortunato li trovi anche con la 50 ampere, di solito ce l'hanno la 30, la 25, la 30 ampere, ma ce ne sono anche la 50 se sei fortunato. Io l'ho pagato una gassata, 20 euro mi pare che l'ho pagato, e va benissimo, ce l'ho anni, non essere affidabile è affidabile, non si ammassa mai con la corrente, figurati. Quando parlo con questo apparato che è potente, non si ammassa mai con la corrente. Esatto, io gli ho fatto l'interruttore sopra, gli ho tagliato un pezzo di lamella, gli ho messo l'interruttore lì sopra e quando vedo lo spengo lo accendo da lì, è tutta una questione di modifiche che devi fare, però poi c'è un alimentatore che va benissimo a tutti gli effetti, poi io c'ho anche quello con gli strumenti, però uso anche questo qua. Non ci ho capito, cioè. Nel tuo alimentatore c'è un aumento di raffreddamento, indica nei computer. Esatto, sì, e non è manco rumoroso. Non fa più, zio. Va bene, qualche salto di loro piatto. Avanti, Tore. Io ne ho due di quelli, stavo usando per un anno, non stavo usando, poi adesso mi ha messo questo con lo strumento, ma quelli stavo usando per un anno, io ne stavo usando e sono buonissimi. Poi anche lei, sì, quando funziona, funziona, pensi i lampi e ne compri un altro, sempre 30 euro li paghi, 25 euro, non sono nemmeno una cifra così esorbitante, capito? No, no, l'importante è che siano fatti vicino, diciamo, anche non mi viene la radio, ecco, detto così, che almeno un minimo di consiglio. Boh, io non sento più nulla. È sparito. Ma ogni tanto da dove c'è qualche cosa? Boh. Antonio, stai praticamente sparendo ogni tanto e fa la vibrazione come se ci fosse un abbassamento di tensione. Adesso sì. Ha fatto una cosa del genere e poi si è sparito. Vabbè, Anto, riprendi. Anto. Antonio, ci sei? Penso che ti dai tutti male, perché sei stato così? Tu bene li senti? Io sì. No, ti intendo io, schietta. Cosa? Antonello era sparito. Sì, è sparito il pupo, come se ci fosse un abbattimento. Anto, ci sei tu, riprendi. Gappa, già ci sono, già. Hola. Schiava i coglioni e tu. Hola. Però non abbia fatto una cagata. Madonna di Ruzzino. Non ne gioco sicuro. Hola, mi sentite? Sì, ma poco fa ci sentivo a tratti, come se fossi gli splatter, no? Perché stavo provando la cosa, allora aspettare che scaldi. Cazzo, speriamo che non si sia potuto, va. Porco boia. Non è possibile, va. Adesso vediamo se scalda. Ai ai ai, le cose ferme, si guardano. Ma se fanno scaldare ogni tanto come faccio io. Io mi metto ogni giorno a scaldare, anche se non c'è gente e li accendo. Chi ne ha tempo, ci sono sempre ora. Aspetta che forse sono io del coglione. Eccolo. Eccolo qua. Ora, eccolo qua, adesso sta andando, com'è? Allora vai, è tranquillo, allora c'è Antonio. Guarda, sto uscendo adesso. Non quasi no, Ma mi siete messi d'accordo con Antonio? In che senso? Perché anche Antonio sta facendo tutto male. Ho leggermente aumentato la potenza d'uscita di questo 2009. Ecco qua, come mi senti adesso? Migliorato Maria Ussi? La voce è molto più chiara, molto più presente, sì. Prima era leggermente più cupa, dai, adesso proprio bella presente, come che sei qua vicino a me. E di segnale è aumentato? Passiamo numero di 5 adesso. E via. Ma va che scatta la farfolina. E anche se ce l'ho, il tipo 131, vanno collegato. Io ce l'avevo un minuto, ce l'avevo a 300 watt. Che c'è un gando, gando cosa si incazza, esce un bel forte, esce. Esce molto, molto, molto forte quando si incazza. 100 watt, 120 watt là, al massimo. Questo mi dà, diciamo, chiuso questa pompa, scappa. Già, da poco fa adesso ho guadagnato parecchio, ma così. Quindi, che lui ha cambiato le valvole, invece di dare 120 ce l'era 120 mi pare. Più? Quanto di più? 130 forse. Tu immagina che ce l'avevo da 300 a cambio. È perché non è poco in distanza, io vedo qua i picchi di modulazione di Gesù Cristo mio. Sta spingendo fortissimo, ma forte sta spingendo. Cappa. L'accendo quando devo parlare lontano l'accendo, capito? Già. Ma esce bene anche di modulazione, non distorce. È bello per quello. Allora, scusate, non ti passano al telefono, arrivo subito. Lascia stare le donne. Avanti, avanti, Tore. Eia, sì. Tanto non ne ha bisogno me di data amplificatore, capo, ti accorto mi. Fa forte pure. Ma che non ti ascolto e so che pure nel suo coso ti ascolto un po' distorto. Beh, sarà 970 di lineare, se non credo. Come si dice? L'ho fatto perché c'era così lontananza, poi lo dovevo accendere perché sennò mi si guappa, capito? Già ero fissato, già stavo temendo già che mi si guattava la pappola. Lo saccio. Io ti sto ascoltando un po' distorto, ti sto ascoltando. Ecco perché. D'accordo, ma ti ascolto la voce un po' distorta. Siccome ti do poco rimane a dare i biglietti, non va nulla, ad esempio, fermo una cosa. Guarda, Padre, ho abbassato un po' i watt, com'è? Appena ha migliorato, meglio di prima già è. Caro signor già, non mi dici non è colpa di puro? Come si? Ha giudito che se lo ascolti di distorto lo stai ascoltando anche tu così. No, io l'ascolto bene. L'ascolto bene perché sono più lontano, magari tu in linea sei più vicino, capito? No, io l'ascolto bene, la radio è chiara chiara proprio, non ha nessuna distorsione. Ma scherzando stai già. Ma lo sai come c'è la mia antenna dal tetto la vede la sua. Ma lo sai l'usignare che arriva in Dinchivi, non è manco un'idea. Anche tu se siamo vicini anche noi, però un po' più lontani lo siamo. Sì, sì. Sì, ma minimo a casa tua gli arrivo 960. Cappa. Adesso ho passato un pelino perché sennò Tore, gatto, certo. Qua questo smitter è avaro, non ti posso dare un segnale giusto perché questo smitter del cobra è molto avaro. Cappa. Già penso che andare un burchino il segnale. Che andare in bufine da di 9 il segnale, capito? E il nome di questo è 9.30. Non so. Oh, Romeo non andate più, Se ve manchi vi 9.30 e più. Se ve manchi vi non andate nessun lupo. Vabbè. Dipende quale apparatura, se usi quelli radiomattoriali arrivano anche a 9.60. Giappa. Ma lo so, io sicuramente è quello che te lo chiederà di più. Attenzione, Russi, se ascolti Sassari. Attenzione, Antonello. Però Russi, evita ma ti arrivo forte. Cappa. Vabbè. Basta che mi metto a 747, anch'io arrivo così, non è che... Perché i batti più o meno sono quelli, solo che BV131 non si acciamba a valvole, invece 747 com'è rimane? Ma guarda, io quando ce l'ho non ho mai cambiato una valvola. Sì, ne ha una sola da cambiare quella, però vabbè, se si trovano non c'è problema, però costano anche un po' le valvole mi pare, non lo so quanto, però so che costano. Costano sì. Però se funziona, e che me ne frega, comunque tira, va molto di più del 747. Non lo so, vabbè, il 747 è un buon lineare. L'ho portato io, sai, non lo conosceva nessuno. Il primo che l'ho avuto sono stato io, 747, poi si è eliminato tutti. Io Natalino, poi ha avuto Pierpaolo, ha avuto un sacco di gente dopo. l'ho portato io qua, non aveva nessuno a Sassari. A proposito, ma volevo dire una roba, Fusaro ha portato la Rambla 98. Lo so, perché Fusaro si è preso la GBC, adesso c'ha tutta la roba della GBC. Ed è molto bello quello nuovo, cambia totalmente. Io l'ho visto, sono a secolo della città da Fusaro, perché io sono andato al parcheggio, è sempre un problema. Una volta mi sono parcheggiato, mi stavo facendo oggi in vigile fianco alla macchina cercando di mettermi la multa, ho fatto tutto il tempo e uscire. Poi a certe ore ci devi andare. Però stavo dicendo che io mi ricordo male, la 48 è illuminato, è il 747, ce l'ha? Ma ordinato ce l'ha, ma non mi sa che non lo fanno più, lo fanno, sì, la GMC ce l'aveva, adesso non c'è più Torino. Sì che c'è, Germano Randaggio, c'è ancora? Sì. Lui ce li ha, però li vede 90 euro i bari, cazzo, si vede bene lì. Questo 47 è buono però, Io lo so, ma a casa non costava così, lui ce l'aveva già 30 euro in più quando, su internet costava per dire 70, lui ce l'aveva 95 di bari. Ma la 48 comunque è caro dappertutto, anche su internet del caro. Ah, ancora tutto quello che fanno adesso non serve a nulla, è praticamente col circuito di quello in miniatura che non si può lavorare nemmeno, microcircuito, quello che c'era prima l'Aran 48 era buono, quello che avevo io modificato, visto sì che lavorava io. Ah, sicuramente è buono comunque, perché il peso ce l'ha, l'ho guardato e il peso ce l'ha, mi informerò. Cioè c'è anche un bel costo, Gianni, non è che costa poco, no? Cioè se lo fanno pagare, io penso che sia un apparecchio buono, anche quello, cioè sia buono comunque. Non è come dici tu. Io l'ho avuto quello nuovo che era modificato dalla casa, c'aveva ecco corsi, tutto quanto fatto dalla casa, l'avevo comprato, ma di Japan. Quanto mi è durato? Una settimana, sono andato a accendere, non accendeva più, bruciato, gliel'ho riportato e mi ha detto, no, sicuramente hai invertito i fili, questo e quell'altro, ho trovato un bel scuse, Torino, capito. Però lo facevano dalla casa, già modificato. No. Usarci per parlare nel prossimo futuro, amore, sto pensando di comprare a Miro, ma c'è un'ora 48 nuovo di pacca. Nuovo era, nuovo dalla fabbrica, solo che li facevano sia modificati che normali, che facevano loro, mettevano le coccolte, il bip secco, tutto quello che fanno i camionisti lo facevano, si chiama Midland 48 Old. Vabbè, comunque, no, la prendo originale, perché la voglio originale. Io ce l'ho qua originale, il vecchio Misa. Ma mi hanno detto che quelli nuovi pigliano manco coepe. No, l'originale, il base voi tu. Sono tutti originali, anche quello originale è un altro modello, però originale, è sempre la 48. Tu vuoi il base, quello normale. Voglio provarlo, ma hanno detto che prende meno colpi. Che non prendono colpi? Se io l'ho dato perché prendeva colpi, io ho venduto un camionista, 450 euro l'ho venduto, quello lì. Però era un signor apparato, era di Gigi Vulcano, quello lì. Era il primo apparato che si aveva fatto fare Gigi. L'ho venduto 450 euro, come l'ho pagato l'ho venduto. No, non hai capito già. Lo voglio, cioè questo è il nuovo, l'ultimo uscito, ma l'ho detto che colpi ne prende molto meno. Ah boh, non lo so, altro, se non avevano fatto qualche modifica, boh, ma quello che c'era prima, l'unica cosa che c'aveva che prendeva colpi, se io in macchina andando a lavorare, se c'era più lì un giovanile o qualcuno alla sua voce che stava parlando, mi faceva abbattimento zero, niente, non sentivo nulla. Lo so. Tutto. Lo so, io ce l'ho qua, è bello, cioè, una popolazione bellissima, è un peccato anche lasciarlo fermo, cazzo. Che non c'è solo più di quella serie, ma mi viene rugore a me. Tore, senza motore, senza benzina, Tore non cammina. Scusate, gioco, sono seduto, ti preoccupa a camminare, a cammino io. Io da voi che siete proprio bene, degli apparecchi. Ciao Gianni. Io so questo, funziona benissimo. E non ne hai uno solo, ma tu ne hai più di uno. Ma è sempre meglio. Questo esce 10 watt esce. Più occhio, ce l'hai anche il cable. Vabbè, ho bigliato, ho guasso non mi ha tanto. Ah, allora, visto che lo faccio un visto. Già lei percepisce tutto quello che sente. Allora sento, ma Antonello che fine ha fatto? È andato al telefono e non sente su più. Probabilmente poi c'era, è già ora di cenare. E io ce l'ho già pronta la cena. Dopo l'arrosto che ho fatto stamattina è ammazzato una bella cosciola con il petto attaccato e mi mangio visto. Che fai bene? Ah, manco te dai in linea di bene. Io ci ho aspettato le gambe, buonasera a tutti. Avanti, Tore. Buonasera, signor Marino, che aspetta? Sono andato di Valentini. Sono impegnato. Sono impegnato a te, ero con il porto adesso, ho capito. Ho acceso e così via. Avanti, tu c'hai la coscia, io c'ho spezzatino di gambe di stavolta, avanti già. Kappa, ciao, questo città anche a te, buonasera. Com'è andata la domenica? Tutto bene, stavo facendo qualche lavoretto, pitturando un paio di messo le mie figlie e la cosa dell'altra. Tutto ok comunque, non mi posso lamentare. Avanti Antonio! E Antonio è caggiuto. Avanti se ci sei, Antonello Di Rossi, ci sei? Niente. Siamo rimasti noi tre allora. Vabbè, Tore, avanti, ripresi il microfono. Ehi. Certo, andiamo, bobo. Signor Marini, sempre vendisi. La fai, scusa, qualcosa bisogna fare, Tore. Senta, noi. Nel mio torto, due messo, erano tre. Due mi ha tolto, era un colore, io non ho fatto un altro colore. Mi ha dato solo, diciamo, con il fondo. Dunque mi ha dato qualche mano in più, capito? Adesso devo andare a tirare per un altro, gli diamo un'altra mano, poi devo riuscire a fare una commissione, quando rientro vediamo se va bene, se gli do un'altra mano ancora. Non c'è fretta, bisogna fare qualcosa a te, se no credi, mi hanno preso, bisogna lavorare. Avanti Gianni. Ma così non ti fermi mai. Sì, ho detto qualcosa bisogna fare, c'ha ragione. Ma anche io qualche cosa ogni tanto me la faccio, se mi devo controllare, questo è Ruiz, cazzo, perché come appoggi la mano, fa gira tipo scossa, ma deve esserci che c'è qualche contatto, ma deve essere qualche cazzata. Esatto, già, però come si abbassa leggermente, che sento qualche rumorino sotto fondo. Così sono al minimo, come va? Ottimo, per me va benissimo, ottimo. No, sentivo un rumore proprio che stavi già craccando, capito? Tutto qua, vediamo se Antonio è entrato, Antonello Di Rossi, Antonello non si per telefono. Torna il nostro squalo, avanti. Io devo essere andato a prepararsi una magna. Così, vabbè, adesso mi loghi. Purtroppo sì. Hai compreso signor Marini? È così è. Quasi arrivati siamo, fra poco è bene un quarto. Io la mattina faccio la... per fare le connessioni del sasso, la prendo in porta, devo portare a fare una visita, poi lo... e poi passo la persona, c'è la gente da prendere il mondo, che la mattina la compagno dalla madre, capito? E dopo torniamo a casa e vediamo il lavoretto. Se è il caso, vediamo una nostra bella passata e su che andiamo. Avanti già. Vabbè, purtroppo la vita è questa, non ci dobbiamo lamentare, la vita è questa qua. Si serva di tutto, E io sempre con questi dolori sto combattendo, sempre con questi dolori, fatto iniezioni, chissà che danza, so un uncino, ce l'è presente, tutta dolori, completamente, da capo a piedi. Già, sei incidente, piano piano, tanto se prendi medicina è peggio, medicina ti fa effetto un paio di giorni poi ti prendo un nuovamente, ormai non ti fa più effetto. Questa cosa è probabile sia anche il peso, l'altezza e tutto quanto. Boh. Io adesso faccio passare questo mese, il mese di febbraio, poi siamo a fare un po' di dieta, per non fare prova costume, capito? Già. Avanti tu. Se fa prova costume, fa. Cioè, se vedo dondo sì. Andiamo a appunto. Appunto devo fare prova costume. Faccio passare il febbraio e poi iniziamo a fare una piccola dieta, devo lasciare qualcosa. A me che mi frega è il pane. Il pane è qualcosa gasata, quello lì è. Se lascio una due, non tutto assieme, piano piano dovrei scendere un po' di peso. Prima perché il movimento ero sempre un signorino. Adesso ho dubitato un po' già. Però io, grazie a Dio, sono sempre dimagrendo, sto mangiando anche poco, non ho più voglia di mangiare come prima, prima ero un grande mangione. Adesso non ho più gana di mangiare, mangio qualche cosa in presa la sera. Così mi faccio un'insalata oppure mangio una caprese col pomodoro e mozzarella, un pezzo di formaggio, un pezzo di salsiccia, così, tutta roba veloce, non ho più gana di mangiare, di cucinare per mangiare. A pranzo sì, ma la sera mi arrangio, se non avanza nulla da pranzo mi mangio qualche cosa di me e basta. E anche l'età, ho già, anche l'età io non devo fare, se come già mangio a pranzo la notte neanche ceno la notte, niente, perché non richiede, comunque non cerco di fare, io non approfitto, non tocco niente, capito? Dopo una mattina con mi alzo, prendo la solita pastiglia, prendo il caffè e così va via. Secondo la mia pranzo io accendo la notte, neanche ceno, niente, mi guardo gli altri, non tocco niente, poi a stare tutta la notte gira, niente da fare, meglio scendere. E anche l'età, anche a me molte volte non ho voglia. Non voglio toccare nulla, solo mi frega, capito? Non voglio il pane, non voglio la pizza, ma quella l'altra, mi butti e tocca mangiarla, capito? Quindi cerco di evitare, bisogna evitare e basta. Avanti, vediamo, faccio chiamata Antonio, se c'è Antonio non rientra, vediamo Antonello Diossi, non riprende, torna avanti. Ti ho detto, dove sono andato a prepararsi da mangiare Antonio, quindi. Vabbè, ci entra già 6 minuti. Antonio, è andato al telefono, devi darsi il telefono da Ronga. Andate, è così. Ce la prendiamo così, ce la prendiamo, mentre bene. Ok. Avanti già. Io ieri ho mangiato perché sono andato fuori, sono andato a karaoke, siamo andati in un ristorante, pizzeria e c'era il karaoke e siamo andati lì e ho mangiato fuori, mi ho mangiato un bel piatto di calamari con le patatine fritte, ma così buone. Calamari, sono calamari. Ma già va bene, una volta intanto già va bene, dai, già va bene, calamari e patate fritte. La cosa piace a me, me ne butti già. La cosa piace a me, me ne toppe. Già le fa, già le fa spesso. Già le fa a me, me ne toppe. Meglio così. Però ogni tanto se ti sento un rumorino, o Gianni, un rumore ogni tanto. Avanti tu. Ma è purtroppo. Cosa vuoi fare? È così. Andiamo bene. Tutti vecchi siete, state invecchiando, ho capito. A cosa siamo arrivati, Invece vale un ruccio. sono andato come io, sono a me vicino, quindi piano piano di radunanza, anno per anno, e siamo tranquilli. Esatto, piano piano, io guarda già noto, io la mattina con la sera, anche oggi mi sto alzando, grazie a Dio, piano piano. Quando non è peggio per gli altri, si arrangiano, avanti già. Sì, vabbè, io non mi sento, perché io ancora vado a cantare, mi diverto. Se c'è da andare a ballare, vado a ballare. Non mi sento un vecchio ancora. Non riesco a recepirlo che sono fatto di invecchiare, capito? Mi sento sempre giovane. E anch'io. Anche adesso c'è quel rumore, eh? Anche adesso c'è quel rumore. Ma anch'io, io mi sento giovane lo stesso, per carità. Certo, c'è delle cose che facevo prima, non ce la faccio a farle, però... fatta con il zappa, fatta con le reserve, cose, sono un giovanotto, più un ispiratore. Con l'ispiratore sono troppo scemo, fino a quando finisco lo termino. Non mi devi la borsa in biglia, a lasciarlo stare intanto. E quando termino le braccia, uia, lo sai, vibra, ti vibra tutto, quando termini di lavorare sono a dolori, capito? Ma sono fatto, io prima mi faccio tutti gli angoli. E poi passo le riserva, cioè buon fatto, se no l'erba cresce e così via, un casotto. Faccio chiamata nuovamente Antonio, si è terminato la chiamata, pure non c'è, Toro Antonio, niente, Antonella di Rossi, scusa, Tore, te lo rilancio, dai. Cosa vuoi? Te lo rilancio il microfono, sei contento? Ma come sono ritornato? Sicuro. Che mi pare io ora vado a prendere i bacilli, tra poco. Eh sì, facciamo così, facciamo. Oh, Iulia, che ti bacilli, sì. Scusa, che si bacilli, te mi biglia, mentre si fa i denti, ribigli e rimani. Non è che ti nata a chi devi bigliare i bacilli. Vabbè, non nulla, e proprio mi sentivo male. Poi ho detto, ma cosa c'è? Poi mi sa cosa, ho contato le pastiglie, in effetti ero un paio di giorni stavo prendendo la pastiglia. Ah, così è. L'ho ripresa, e dopo mi sono sistemato. E è entrato Antonio, avanti. Non avevo a bere i bacini, di ribili, mentre la sua famiglia di ribili i bacini e continua a farmi andare. Non è che ti devi andare. Hola, sono ritornato, eccomi. Abbiamo sentito Antonio, abbiamo sentito. Aspetta, c'è la risposta da Gianni. Va, Tore, avanti. Ehi, questo è tornato. Cos'è? Preparavi per la mangiare. Ah, e allora hai chiuso i bacini, si usa la pastiglia, si deve preparare la mangiare, hai compreso il signore? Ma dai la pastiglia per te anche modulando, eh? Si prende la pastiglia, mi chiede l'acqua e puoi continuare. Avanti a tu. Cappa, adesso può fare pure così, già. Cappa. Una bomba sei, Mari, una bomba sei. Una bomba, non male che tu sei male, sei 9.20, già nel 9.25. Ma è stato 9.15, 9.18, vai, tutto qua. Siamo tutti forti a quest'ora. Avanti te. Mari, sei anche troppo forte di radio, qua sei troppo forte. È un po' distorce la radio. Se abbassi appena appena magari va meglio. Adesso abbasso leggermente. Va bene così? Ehi, adesso sì, adesso va meglio. Prima era troppo forte, troppo potente, forse perché in linea d'aria siamo vicini e mi arrivava troppo in saturazione, arrivava un po'. E dopo anche il microfono se vuoi vicino troppo la bocca, non lo voglio mangiare, avanti anche tu. Ma comunque sia, non per dire, però la grande portuguesa è fatto 4-0 alla stella, cioè un segnalone c'hai, Anche la stella andava bene, anche la stella andava benissimo, la stella andava troppo bene, contenuta la stella questa va bene, ma la stella aveva una bobina che si muove mai in capo, bella grossa, aveva il tubo di rame bello grosso, questa è sottile come carica diciamo, ma adesso abbiamo questa già va bene, fisicamente va troppo bene, leggera, facile a piantare, su che andiamo. Avanti, buon dottore. Dottore, aspetta un attimino, che sto facendo un attimo di cosa. Sta sono qua. Tranquillo, non preoccuparti, avanti già. Gianni. Avanti. Antonio. Lei a capa. Sta per rosignare più pieno, cioè. Sarà che con te non mi intendi in completo pieno, se a bomba. Adesso è abbastanza, quanto stai arrivando adesso? Che cosa? Quanto ti sta arrivando il segnale? 9.25, bello forte. Già abbiamo abbassato, come ci è abbassato qualcosa, abbassato. Bene, vediamo, faccio chiamare Antonello. Antonello Di Rossi. Io ci sono, mi sentite? Certamente, avanti già. E ho cambiato apparecchio là, perché con questo qua tutto di buon di male, Galassi, c'è una decezione che è una cosa allucinante, è stereofonica. No, bella, bella, solo che ogni tanto ti sentivo il rumore sopra mentre stai modulando. È un rumore, no, tipo fanno su, proprio sopra. Questa modulazione è più aperta, diciamo, dai. Anche l'altra, solo c'è quel rumore e basta. L'altra è più spinta. Andiamo, vai, andremo, avanti tu. Cappa, la mia tra un po' farà un anno, farà. Tra un paio di mesi.